Non è bella Livorno quando il cielo e il mare si confondono ad un unico grigio, e quando la pioggia invisibile ti passa nelle ossa, dalla pelle e fino all'anima. No, Livorno così non è bella. Livorno è bella con gli schiaffi di vento mentre cammino con difficoltà e intrampolo i passi. E amo Livorno ventosa, che mi sposta i capelli pazzi e mi trottola i pensieri, quelli brutti. Faccio volare. Quelli belli li acchiappo al volo, quelli no, stanno con me. I gabbiani che mi guardano camminare sul lungomare, mentre planano senza fatica, ma guarda quella, con quel cappellino verde che pensieri brutti, e così impicchiata, che quasi mi fanno intrampolare di più. Scendono verso la mia passeggiata, prendono qualcosa veloce intorno a me e con un solo battito di ali riprendono a planare. Un gabbiano solo rimane ai miei piedi, mi guarda, mi chiede un giuro con gli occhi. C'è un pensiero che è pesante, che è nato qui vicino al mare. Giurami che non lo fai più, io te lo porto via. Un giuro con un gabbiano è da pazzi, ma io l'ho fatto, con tanto di mano sul cuore. L'ho fatto in quel giorno di capelli usciti da un cappellino verde scompigliati, e quel gabbiano l'ho visto planare verso l'orizzonte lontano. Verso la meloria. E leggera, in modo inatteso, ho pensato che Livorno è bella quando il righello dell'orizzonte squadra il cielo dal mare, due blu, anche se di una sfumatura vicinissima e quasi impercettibile, ma due blu per un astro di mare, dove tra poco andrà a inzupparsi un biscotto di sole.